Erano giorni neri, non sentivo odio né amore. Erano giorni neri, mi sentivo come morto. Cercavo solo te e tu mi lasciavi solo. Ora son giorni allegri, mi diverto, il tempo vola. Ora son giorni allegri, la quaresima è finita. Viva la gioventù che regala notti bianche. Erano giorni magri, non avevo in tasca una lira. Erano giorni magri, tu potevi darmi una mano. Avevo solo te e tu non alzavi un dito. Ora son giorni grassi, son finite le vacche magre. Ora son giorni grassi, ho incontrato Maddalena. Tu non esisti più, non ricordo più i tuoi occhi. Erano giorni vuoti, canzoni senza parole. Erano giorni tristi, piangevo come un bambino. Amavo solo te e tu mi hai lasciato solo. Ora son giorni pieni, ora c'è Maddalena. Tu non esisti più, non ricordo più i tuoi occhi. E viva Maddalena che regala notti bianche. Ora son giorni grassi, la quaresima è finita. Tu non esisti più, sei andata sulla luna. Ora c'è Maddalena e viva la gioventù. E viva Maddalena che regala notti bianche. E viva Maddalena, la